Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento quest'oggi con l'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Tra l'altro segnalo che dalla settimana prossima cambieranno leggermente alcuni giorni in cui sentiamo i nostri amici dell'Adico, però l'appuntamento resta ed è un vero piacere, insomma, affrontare i temi importanti con l'Adico, in particolar modo con il presidente Carlo Garofolini, che è con noi al telefono. Ciao Carlo e benvenuto. Ciao Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Oggi ci vuoi parlare di una bella vittoria dell'Adico per una cosa che potrebbe capitare, sempre, magari anche alcune volte potrebbe essere una distrazione nostra, ma la maggior parte delle volte non è così, sono le famose clonazioni dei bancomat che possono accadere. Sì, esattamente Francesco, parliamo di clonazione, quindi vuol dire di un addebito fraudolento che il cliente si è trovato a ricevere nel proprio conto. Però questa volta siamo felici di raccontare questo episodio e promettiamo che non è l'unico, ma ne abbiamo molti di questo genere, in cui hanno visto come protagonisti i nostri dell'ufficio legale dell'Adico nei confronti di una banca BNR, la quale non voleva riconoscere il rimborso a una loro cliente. E oggi siamo felici a commentare questo felice epilogo della vicenda, in cui sostanzialmente la persona si è ritrovata a vedersi restituita i 3.000 euro che improvvisamente si è trovata sparita nel proprio conto. Ecco, vogliamo raccontare un po' cos'era successo in questo caso? Beh, la vicenda è molto divertente, anche perché la signora è andata al bancomat a prelevare e in istituzione alla sua tesserina ha ricevuto nello sportello della filiale un bancomat rubato che non era suo. Quindi conseguentemente lei nei giorni dopo, utilizzandola, si è trovata a digitare, convinta di aver digitato il PIN errato e la carta bloccata. È tornata in banca per capire come mai il PIN non era più valido o verificare che non si fosse smagnetizzata la banda, e qua ha trovato la sorpresa che, oltre ad aver avuto un bancomat rubato al posto del suo, e sono stati prelevati nel giro di qualche giorno a debiti da 500 euro per un importo complessivo di 3.000 euro. La banca, chiaramente, a fronte di quelle che sono state delle pretese della loro cliente, ha fatto le orecchie da mercante, e oggi, dopo, come ho detto, un contenzioso che si è prolungato per quasi un anno, l'arbitro bancario ha condannato la banca alla restituzione della cifra e anche al riconoscimento delle spese legali che la signora ha sostenuto, che posso anche dire in questo caso sono state di 150 euro. Ecco, mi viene da pensare, strano che la banca abbia fatto questa opposizione quando, insomma, si capisce che il problema non era della signora, ma è di qualcuno che ha sfruttato i codici e il bancomat. Come in tutte le vicende, scopriamo che quando c'è la favore dei propri diritti ci si trova sempre a doversi scontrare contro dei muri. E la signora aveva ragione, la ragione era palese davanti agli occhi di tutti, ma purtroppo gli unici a non volerlo comprendere era la banca, la quale sosteneva che l'addebito era stato per colpa della signora. In realtà dobbiamo anche tener conto che quando accadono queste cose bisogna dimostrare che, insomma, l'addebito è stato fatto in maniera impropria, e nel caso della signora c'è stata anche una denuncia da parte della sottoscritta ai carabinieri, ma anche a dimostrazione come questi debiti da 500 euro sono stati fatti uno a seguito all'altro in pochi giorni, per cui anche in bancomat e in sportelli che non potevano certamente essere ricondotti alla signora. Però ricordiamo anche agli ascoltatori che la banca, in quanto responsabile della custodia dei nostri soldi, quando accadono queste cose è l'unica responsabile, e certamente di fronte a certi atteggiamenti che possiamo dire tra virgolette poco collaborativi, il fatto che una signora debba rivolgersi all'Adico e l'Adico deve intraprendere queste azioni di forza, che queste azioni poi durano anche un anno per vedersi rimborsare dei soldi che ci spettano, certamente grazie alla capacità della signora e dei nostri figli siamo arrivati a questo felice epilogo, ma ci sono persone che magari per poche cifre lasciano perdere perché si scoraggiano e credono che di fuori nei confronti di una banca non si riesce a avere ragione. a me viene in mente che ci sono delle banche che evidentemente forse la BNL all'epoca non si era ancora attrezzata, delle banche quando fai un prelievo superiore ai 50 euro ti arriva il messaggino sul cellulare che ti avvisa del prelievo, quindi in poco tempo ti accorgi se c'è qualcosa che non funziona. Sì, questo che hai detto è sicuramente un ottimo consiglio, che non è l'unico, perché bisogna sempre ricordare ai nostri ascoltatori che quando si utilizza il banco ma ci vogliono sempre delle avvertenze e anche delle precauzioni. Quella che dice te dell'SMS sicuramente è un sistema molto efficace, ma anche quando si digita il codice bisogna stare attenti a non essere visti, bisogna verificare che la tastiera molte volte non possa, che la tastiera non possa essere manomessa se ci sono dei giochi così nella digitazione, soprattutto non oltre, come detto, a non essere nascondersi quando si programma il PIN, anche fare in modo che lo stesso numero venga conservato distante dalla tessera e possibilmente non nella rubrica telefonica come fanno tante persone. Piccoli accorgimenti che a volte possono evitare di incorrere in queste situazioni e anche non lasciare in giro le ricevute, che non è mai simpatico e possono dare adito a queste pseudo truffe. E allora, grazie all'Adico che ci ha segnalato questa cosa, e sono sicuro che la signora sarà molto contenta, insomma, di essere tornata in possesso dei soldi prelevati da qualcuno. Chissà che poi anche le ricerche portino al ritrovamento del colpevole. Grazie, dicevo, all'Adico, al presidente Carlo Garofolini, che troviamo tra un paio di giorni. Grazie a te, Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.